Ecco Cristo, Cristo, ecco Simbol, Simbol, ecco Cristo, Cristo, ecco Simbol, Simbol, ecco Cristo, Cristo, ecco Simbol, Simbol, ecco Cristo. Dove vi può chitarra?